Base Luna chiama a terra, Base Luna chiama a terra, 1, 2, 3, prova. Claudio. Prova di trasmissione. Prova. Mi senti sì o no? Certo che sì. Allora rispondimi, no? Ciao, buonasera. Ciao, buonasera. No, mi hai riconosciuto? No. Eppure sempre lo stesso, eh? Claudio, ciao. Sei con un'altra modulazione. Certo che sì, con un'altra modulazione. Io radio è 80, ogni tanto bisogna fare andare, ma già si capisce che sono io. Sai un altro tono, non sembri tu, no? Non sembro io. Quando modulo questa radio non mi dice niente nessuno, mi riconoscono subito. È tu che non mi senti tutti i giorni. Con le altre ti riconosco al volo, ma con questa non l'avevo ancora sentita. Per quello è... vabbè. Ehi, questo è una vecchia baracca. Vecchia ma buona, sta andando bene, va benissimo. Io non entro se esco male. La tonalità è diversa, senza ombra di dubbio, però già si fa sentire, già va bene. Sì, tutto ok. No, era un paio di giorni che non attendevo perché ho approfittato che è venuto mio figlio in vacanza e abbiamo mattonato il terrazzo su, di buona volontà, ci siamo messi 2 giorni e l'abbiamo fatto. Ah, Roberto c'era, e cosa avete fatto? Che antenne avete montato? No, Roberto. Abbiamo pavimentato, messo le mattonelle, cambiate le mattonelle per te. Ah, ne hai un altro? Io conosco solo a Roberto. Ma in effetti ne ho 5. 4 maschi e una femmina. Grandi? Tutti grandi. Il più piccolo dei maschi ne ha 37. Ah, faccia il cacchio. E tu quanti anni hai? E io non sono piccolo, non sa, italiano. Io ho 67 anni, Claudio. 67? Allora, sei più grande di me. 10 anni, fate il conto. No, pensavo che ne avessi un 62, 63. Va bene. KK. No, stai arrivando benissimo qua con questa radio. Sto andando una vecchia baracca chiamato DAC. Sai che stavo cercando un po' il vecchio, mi sembra che era un tempo, 46 a valvola, che andava benissimo, dava una modulazione molto calda, mi piaceva parecchio. Ma vai tu e trova, non si trova più in giro. Ehi, se ti metti a cercare già li trovi, io ne ho 3 o 4 vecchie baracche, c'ho l'Inuit 294 base. Però non è valvolare, è a 220 ma non è valvolare, questo che sto usando io è valvolare, c'è lo stadio finale a valvole, capito? 220, anzi 110 con lo stadio finale a valvole. Io oggi c'ho l'adattatore perché la connessione è diversa, il microfono io sono tutti all'AN 48, praticamente Midland, no? Quindi uso ogni tanto per farlo andare, uso il coso, l'adattatore, che ho solo per questa radio e lo faccio andare, però risponde molto molto bene. Chiaramente sotto c'è un 747, quindi c'è una quarantina di watt, 40-50 watt, perché le valvole non le trovo più, si sono esaurite, quindi stanno dando intorno ai 2 watt e mezzo, 3 watt, e allora piloto un linearetto piccolino, che ho messo dietro, proprio attaccato dietro la carcassa, manco si vede, di quanto è piccolo, però fa il suo lavoro. Sì, certo. Comunque guarda che si dovrebbero trovare le equivalenti. La sua originale magari non la trovi più, però trovi le equivalenti che sono più o meno uguali, possono andare bene. Una volta sapevo dove cercarle, adesso non me ne ricordo più. ho cercate qua, però non le ho trovate. Me le avevano procurate, poi siccome una radio molto, sottolineo, molto grande, è molto grande, è una radio forse una delle più grandi che esistono in commercio, che esisteva nel commercio, capito? E quindi la uso poco, e allora lasciandola ferma sono normalmente esaurite le valvole, non dando le tensioni, capito? E quindi l'ho lasciata perdere. Allora adesso mi sono rotto le balle, le metto un linearettino, tanto con 2 watt e mezzo, 3 watt lo pilota benissimo, non darà al massimo, anche se da 20-30 watt fa il suo lavoro. Allora mio giro l'ho accesa, stavo ascoltando e ho sentito a te prove tecniche, sono entrato a salutarti. E comunque guarda che sei sempre con lo stesso segnale, più o meno. Una lineecina in meno, ma siamo lì, la radio è più che ottima. Anzi, ti dirò, mi piace molto questa radio. Piace un po' a tutti, no, ma poi queste radio sono molto, molto calde, capito? Essendo valvolari, con lo stadio finale a valvole, hanno un buon sistema, ricezione è ottima, come che sei qua, segnale più di 9 e la radio è perfetta, veramente un'ottima ricezione. Ce l'avevo già accesa un paio d'ore, 2-3 ore, giusto per farla, per tenerla in stand by, capito? Però è una signora radio, è bellissima, ce la vedi, è spettacolare, non spettacolare, di più. Sai cosa mi sta stuzzicando? Ma è 101 ZD, 101 One, lo ricordo. C'è una radio, quella fantastica, io l'ho sentita parecchie volte, mi piaceva parecchio, solo che è un canale alle bande sue, non si può aprire, capito? E comunque è sempre una bella radio. Sì, va bene. L'ho avuto io il 101 ZD, l'ho avuto tanti anni fa, c'ho anche le foto, avevo addirittura la linea completa col VFO separato, la sua colonnina esterna, ma era un bel ragione, cioè ci vuole un sacco di posto, capito? Però se ti metti già lo trovi, è che se lo fanno pagare, un 101 ZD non troveranno meno di 400-500 euro, solo la radio, se poi vuoi il VFO esterno e tutta la linea completa ci vogliono solo. Sono radio vintage che però fanno ancora il suo lavoro, sono decametriche, quindi lavorano molto bene. Ok, quindi sul tetto non hai messo niente, l'antenna è sempre la stessa, così il problema delle stazionarie l'hai risolto. Ma ti dirò, forse sbaglio io a leggere perché qui mi dà una scala strana, perché parte da 1, poi ci sono 10 tacchettini e arriva a 2. Adesso non so se 1 e 2 arrivare al 2, o se no le tacchettine arrivare al 2 sono 1, 2, 3, 4, eccetera. A te cosa ti sta segnando adesso? Dov'è l'ago dello smitter, del rosmetro, dello strumento, dove si ferma? A che tacchetta si ferma? Alla quarta, mi segna 1 e poi 4 tacchettine piccoline. E c'hai 1 e 4. Va bene, non è che... Non sei così allarmante, no? No, è su 40 c'è 1 e 1. Su 40, 1 e 1. Sul 40 hai 1 e 1, mentre giù invece è 1 e 4. Ma tu hai la Mantova? Sì, la Mantova, quella vecchia con i 4 radialetti. Come la mia, è la spirale, giusto? Sì. Infatti ho fatto una ricerca e ho trovato che più o meno, così dicono, così ho letto, che dal rivetto arrivare alla faccetta di sopra ci devono essere 7 centimetri staccati. Qua guarda, sono grandissime stronzate, perché è una misura pro forma. Ad esempio, la mia è a 5,5, è dal canale 1, ti dico, dal canale 1 al canale 80, ho sempre le stesse stazionarie, 1 e 1, ed è 5,5, non è assolutamente vero, che deve essere per forza 7. Perché è una misura pro forma, in base all'altezza, in base alle radiazioni dell'antenna, in base a dove è montata, in base a tante cose, te la regoli tu. Io me la sono regolata a 5,5 e ho stazionarie 1 e 1, rapporto a 1, dal canale 1 al canale 80. È ottimo, ottimo. Sì, comunque così, stando alla logica, non può avere un valore fisso, dipende sempre come l'hai piazzata, che altezza è, se c'hai i riflessi intorno, eccetera, tutte queste cose così. Te lo dico qua perché c'è un'esperienza, c'è quel tipo di antenne allucinante, ho sempre avuto quelle antenne, le ho sempre corrette, sempre, ma non solo a me, anche ad altri. Nel montaggio è Mi 7 e a futtidini tu di 7, vai, guarda il rosmetro, poi già te la regolo io. Quando c'hai 1,1 dal canale 1 al canale 40 o superiore me lo dici. E così abbiamo sempre fatto. Quelle che ho montato io non sono mai a 7 cm, mai. 6, 6,5, 5,5, 5, dipende dove è l'antenna, capito? Quindi secondo me lì, se tu quella spirale, quindi hai i canali alti e hai stazionari, nei canali bassi no, devi abbassare leggermente la spirale. Se tu la porti a 6,5 anche se a 7 o anche a 6, tu vedrai che il tuo problema è risolto. Il problema è buttarla giù ci vogliono almeno 4 persone, perché è un po' problematico, il tubo è pesante, non è telescopico, è carino ed è molto pesante. Adesso alla prima occasione lo faccio. Mai montare tubi che non sono telescopici qua, e come fai? Cazzo, ogni volta devi chiamare gente, no, io ho avuto l'esperienza anche da poco, assolutamente, per buttare giù le direttive ho dovuto chiamare 2 persone, è abbastanza in forma e massicce, perché assolutamente era negativo, proprio perché il master era fisso, da 4 metri, tubo zingato, innocenti di quello d'almine, scalinato, quindi un casino. Io la Mantova e tutte le mie antenne, tutte, oddio, c'ho la Mantova e le due verticali VU e basta, non c'è più niente sul tetto. Tubo telescopico, lo sollevo, lo abbasso come e quando voglio, proprio da solo, quei lavori adesso li faccio da solo, proprio giocando. Mai più metterò un tubo fisso, perché mettere un tubo fisso significa sicuramente avere una grande certezza che l'antenna non cade, se è stata fatta bene. Ma c'è il problema di quando devi fare manutenzione, come cazzo fai? Infatti. Quel tubo c'è oltre 20 anni, scusati, ce l'avevo su la Circe 2000, la gloriosa Circe 2000, grandissima antenna, molto meglio di questa sicuramente, andava molto, ma molto meglio, mi ricordo i segnali di quella erano superiori, purtroppo non si trova più, è sparita dalla circolazione. Lo so, ma io quando modulavo a Porto Torres, che eravamo una bella graffetta, andavi molto bene, io allora avevo la Super Regibus, uguale a quella di Gavino Carciofo, di Gavino Migheri, che è morto, poi che ce l'aveva la Super Regibus, ce l'avevo io, ce l'aveva, mi sembra, Vichingo, che era volta attorni, ce l'aveva R6, e mi sembra che ce l'avesse anche col Salonero Gavino, sì, eravamo in 3 o 4, avevamo quell'antenna, ed era simile alla Mantova, simile, molto simile, però aveva una resa fenomenale, capito? Aveva una resa fenomenale, perciò mi ricordo molto bene, ti ricordi, io trasmettevo la casa di mamma da via Cavulli, attaccato a Donfino, che era radioamatore, IS0, DNB, DNB e io sono DFB, figurati. Va bene, riprendi. sì, adesso me l'hai detto. Doveva regalarmi un po' di radio e poi invece ha migliorato, se n'è andato, è morto. È morto, le radio sono ancora lì, però lo sai. Perché mi ha detto mia madre, era andata una volta, perché a casa adesso c'erano i nipoti, e sopra nella mansarda dove lui aveva la sala radio, che tra l'altro il dipolo suo dei 40 e 80 attraversava il mio terrazzo, gliel'avevo fatto mettere nel mio terrazzo, io avevo solo la superregico, quindi l'avevo strafatto io a Don Giuliano. E quindi avevo un rapporto bellissimo, veramente, la passione a me mi è venuta anche grazie a lui di andare avanti, perché ero sempre da lui, aveva questa linea Drake, questa lì che poi ho avuto anche io, sempre avevo fatto una bella cultura su quella radio, facevo l'accordo in un secondo, preselettore, selettore, tata, ero già in aria, e sempre in perfetta esonda, nonostante avesse la ricerca decametrica, la facevo funzionare da Dio. Poi avevo una linea Uniden, che quella me l'aveva data a me, poi è andata male perché non riceveva più, era diventata sorda, da qui da là l'avevo regalata completa, la linea Uniden 2020. E poi cosa aveva? Sì, aveva anche una linea Iaesu vecchia, sempre vinta, sì, ne aveva di roba Don Giuliano, ne aveva tanta. E mamma ha detto che qualcosa è ancora lì. L'ha vista in questa mansarda, siccome c'è le cosce, le radio, mia madre, si è fatto una cultura. Ero sempre nella cameretta mia, era sempre dentro il piano di radio, da ragazzino, ho iniziato a 14 anni, figurati. E comunque, niente, grandissima persona. Beh, io abitavo lì attaccato a lui, e più avanti di me c'era Manola e GT2, no? Tore Burroni, che poi è diventato radioamatore anche lui. Sì, è vero, così. Ma sbaglio, o anche tuo fratello modulava una volta? Sì, Antonello, Medium si chiamava, Antonello Medium, lui parlava molto con Gavino, con Gavino Carciofo, con Ernesto, con Giampaolo Silvestro Bonanima, con Giampaolo RC2, per quella greffa. Io invece ero solo casinista, come sono rimasto casinista. Qua si parlava ai tempi d'oro, non so se l'hai mai sentito, Brigantino dall'Isola Rossa. Sì, Brigantino, Francesco Briscolone, che sono andato anche al funerale perché ho lavorato per 5 anni in quella zona, avevo Badesi, praticamente da Santa Maria Coghina facevo tutta la zona fino ad arrivare a Vignola, e quindi quando era vivo guai se non passavo a trovarlo e a prendere il caffè, perciò sono andato anche al funerale io di Francesco Briscolone. E Brigantino ci passavo tutte le mattine davanti, perché lui abitava vicino alle poste, salendo per andare a Trinità Alta, diciamo, dai, capito? Quindi già conosco bene i personaggi e conosco bene la zona. Sì, ma ce n'erano tantissimi. Però ti ripeto, in quegli anni lì io avevo l'HB23 con il turner più 2 da tavolo e basta, e l'alimentatore, non avevo altro, ma arrivavo in capo al mondo, da tutte le parti mi sentivano, la casa di mamma, è una bella zona anche quella. Sì. E con Brigantino una volta mi aveva mollato il kilowatt. Una stufa valvolare che era pazzesca, pesava 50 kg, ma sparava davvero, ma me ne sono disfatto molto presto, perché prima di combinare casini vari, l'ho data via. Ma quei lineari lì oramai non servono più, che ha quegli amplificatori così a valvole di vecchio stampo, non si può pagare l'Enel, capito? Ormai gli amplificatori sono allo stato solido, sono transistorizzati, hanno un consumo zero, pari a zero, e poi non ti creano problemi, capito? Le valvole sono state sempre pericolose e continuano ad essere sempre pericolose, soprattutto quando ce l'hai vicino per la radiofrequenza, per l'RF, lo sai, no? Non ti devo non segnava niente. Infatti io quello valvolare che avevo della Iaesu, l'FL2100, l'ho fatto, mi sono preso quello dell'RM Italy allo stato solido praticamente, che ha la stessa potenza però consumo zero e meno problemi, capito? Meno rischi, dai. Sto cercando un buon filtro di rete. Stavo leggendo e indicano questi Neumann o Neumann che sono molto buoni. Sui 100 euro sono ottimi, rientro da RF, forze elettriche, fermanti, fulmini, eccetera. Lo conosci? Sì, sì, ne ho sentito parlare, però di questi filtri così è molto, quando senti a Marco Condo, lui si intende di queste cose, io non ho mai avuto problemi di niente, quindi non ho mai avuto nessun filtro, niente, capito, neanche TVI, né PRF, io ho la massa direttamente che arriva dentro, ho la barra di rame tassellata a muro dietro il pannello delle radio, dietro la base delle radio, ci sono tutti giallo-verdi, ho fatto un bel lavoro, ci ho salvavita, ci ho tutto proprio fatto elettricamente a norma di legge, quindi non ho mai avuto grossi problemi, capito? Se senti a lui, chiedi a lui dovrebbe conoscerli questi tipi di filtri. E un filtro di corrente mi serve a me, perché ho un po' di disturbi qua in giro, non ho capito bene. E a volte strugge anche parecchio, si sente, ho provato a staccare spine, a girarle, a farle, boh. E allora l'unico è un filtro di quelli dove risolvere. Tanto è vero che questo lo sta facendo andare a 13,8 e non con l'attuale alimentazione del contenuto. Ah no, questo è 220 e non ho problemi neanche di rumore, di niente, va alla grande benissimo, nessun problema. Ok, aspetta che cambio radio, dai, che questa mi sta già arrivando l'aria calda alla faccia. Commuto e passo con l'altra radio, ok? Avevo appena fatto la doccia, mi doccio un attimino e rientro subito. Cappa, va bene? Ehi, Claudio! Vabbè, Lugariello, ma mi senti con questa radio? Ma sei gasso, grande! Luca ha bucato pure antenne, no? Che ma come vi credo? Che cazzo mi ha mandato tutti i video? Ma solo le VLU mi ha tolto tutto. Ma io l'ho preso Maroggia io. Mi ha capito che aveva svenuta. E avvenite tutti e due. Cos'è, Oca? Ma buonanno, li avvenite tutti e due. Pinocchio è Don Vito. Uia. Non vi credo più, cazzo. Dite una cosa, poi non la fate. A me mi ha mandato le foto. Che nella buca di tutto, voi sei Pinocchio. Vai, che se ne vocate, ma muori, tu. Tu che è Pinocchio, siccome è Pinocchio. Pinocchio sarà. Quindi è Pinocchio Finocchio. Mi senti, Ginko, con questa radio, sì? Cazzo a voi, la sei novetizia, no? Va bene, gappa di Roger. Che radio sto usando qua? Il DAC con l'MB più 5. Cazzo, va bene, va bene, va bene. Ok, va bene. A Malagana deve andare bene. È già testato, io non sto lì a chiedere controlli e niente. È già testato. Va bene, e questo è quello che mi ha fatto il connettore Lucca. Lo volevo fare per il DAC, poi ho detto no, farlo per il Midland, così già ho l'adattatore per il DAC, perché il DAC non lo uso quasi mai, capito? Ah, già, esce bene, ma ok, una bella radio anche questo, è una bella radio. Ehi, già va bene, oggi andiamo una sigaretta. E Tonino, non hai sentito? Tonino doveva fare un casino di cose oggi, doveva andare a fare la revisione, doveva pagare l'assicurazione, tutto oggi doveva fare. Sempre incasinato, vabbè, vai. Aspetta. alla cicca. 6H. Hola, c'è qualcuno 10? Attento 10. C'è avanti. Attento 10. Hola. Attento 10. Canale 10. Gianfranco, sei tu? Sei Castellano, vedi che non mi riconosci. Ascolta, ho avuto un serio problema sul microfono. Poi guarda una cosa che succede una volta su un miliardo. Mi dici se adesso va bene? Bene, bene. Ti sento bene. No, il volume era a filo di capibilità. Mi sono accorto per caso che c'era qualcuno qua. Ho guardato lo smitter e ho visto c'era il segnale, eccetera. Ma ci sei solo tu? E penso di sì, perché sono entrato adesso, cioè, o meglio, c'ero, però ero un po' più sotto per fare una tarattura. È la solita, anzi aspetta, innanzitutto mi dice se senti anche la minima, dico la minima alternata sotto. Puoi sentire solo una ventola, ma non devi sentire alternata. Ecco, vediamo un po' com'è. Oddio, io più di tanto non sento. Non sento nulla di anomalo. Se vuoi alzo il volume di ancora e vediamo cosa succede oggi. No, poco fa l'avresti sentita. A livello di voce era quasi, capito? Quindi se mi dici che non c'è, e poi dall'analisi che ho fatto non ci dovrebbe essere, perché insomma mi ha fatto perdere un po' di tempo, però si è addirittura rotta la capsula condensatore. Cioè può capitare, sono tra le più affidabili, le più resistenti, eccetera. Beh, partita la capsula, te lo immagini. Ma la voce si sentiva, solo che c'era un'alternata, la paura. Veglia, ma che tipo di rumore ti ha dato, di difetto? Non usciva semplicemente oppure ronzii, crepiti, dolci rumori? Beh, se erano dolci, rumori, ti lasciavo stare. È più difficile fare quelli che fare altro. No, cioè semplicemente un fortissimo ronzio causato dalla rottura proprio dal fetto dell'impianto che c'è dentro la capsuletta, la condensatore, e quindi fortunatamente ne ho un po' quasi di capsule a condensatore che l'ho messa, se n'è andata. Però nel frattempo avevo già smontato l'apparecchio della rottura di spalle. Quindi se mi dici che è tornata, come si può dire, a vivere ed è tranquilla, diciamo che l'operazione è riuscita. È chiara, sì, leggermente amplificata, insomma come al solito. Il rumore che sento, aspetta che mi accomodo un attimino. Sono stanco, mi manca il cavolo, ero a fare commissioni, ci ho mangiato una cosa, un velox veloce, poi oggi mi coricherò prima. E nel frattempo che ti facevo la premessa ho dimenticato cosa ti devo dire, Gianfranco, perdonami. Dunque hai detto che sei uscito, immagino che sei andato all'ExaSound, che tutti vanno lì e c'è la fila oramai, così almeno ci scappa anche qualche contagio. E niente, quindi sto dicendo che era la capsula, è partito sicuramente qualche cosa sulla massa, perché sembrava un radar, si avvicinavi e diminuiva, allora, e aumentava questo forte ronzio tipico 50 Hz. E quindi dopo un po' di indagini sono riuscito a trovarlo e l'ho cambiato. Stava prima, stavo facendo una prova in 40 metri e Claudio, ma guarda che c'è un'alternata tedesca, alternata, blu. Poi ho provato, ho controllato, sì, in effetti c'era. E niente, quindi adesso abbiamo ripristinato un po' l'ordine delle cose. Poi vediamo un po' se mi ricordo cosa mi stai chiedendo. Sì, la capsula al condensatore, fortunatamente ho scoperto come toglierla, si toglie l'affare metallico, non c'è niente da aspettare, perché si estrae, c'è la solita gomma a piuma e poi si rimette tutto come era. Vabbè dai, niente di problematico. Ah, ecco, avevo ordinato quel microfonino a condensatore da bavero, come lo chiamo io, da colletto a condensatore, con l'attacco mini jack da 2.5 mono, per quell'apparecchietto lì. Dalla Cina costava 2 euro forse spedito, una cosa del genere. Io spero che non ci siano problemi di impedenza, perché non so se tutte le capsule a condensatore hanno la stessa impedenza oppure no. Allora, sul sito della President mi diceva che quello originale che vendono loro praticamente è un microfono a condensatore, no? La capsulina, no? Il cavetto è uno spinotto, tutt'uno, 25 euro più spedizione dagli Stati Uniti, cioè alla fine ti esce un altro apparato. Lì il sito mi indica impedenza 680 ohm, ma quella è un'impedenza prossima alle capsule dinamiche, non al condensatore. Devono aver sbagliato qualcosa. Di solito sono qualche kilo ohm, no, le capsule condensatore. Vabbè, male che vada, casomai farà fischio oppure non esce di radio, non credo che si creperà nulla. E poi la tensione di alimentazione è diversa in base alle varie capsule, giusto? O sono tutte uguali? Io niente saccio. Guarda, dunque, queste capsule, mi riferisco a quelle a 2 tiri, per essere alimentate, normalmente hanno una tensione abbastanza bassa. Tu figurati che, guarda, se, con un po' di manualità te lo potrebbe anche costruire, risultati. Tutto questo casino, soprattutto se è un microfono che non è spiralizzato. Praticamente tu immaginati i due contatti di normale microfono dinamico, ecco. Allora, nel dinamico c'hai due contatti, una destra e una sinistra. La differenza è che il condensatore c'ha un contatto, diciamo, un po' caldo e la massa, quindi quello che dovrebbe circondare anche la carcassetta in alluminio. Per alimentarlo cosa fai? Devi praticamente collegare un positivo, ridurlo tramite una resistenza che dovrebbe essere da 3 kilo ohm, quindi 3000 ohm, al polo caldo. Quindi il positivo al polo caldo con di mezzo una resistenza da 3. E il microfono si alimenta. E se c'è delle casse di computer che sono amplificate abbastanza, le puoi usare come test. Se tu fai questa prova puoi sentire il microfono e ti fa cadere il sito, perché sono molto sensibili. Ok, dimmi se da questa distanza mi senti tranquillo, perché la distanza dei mandroni, capisco. Ogni tanto sale il corremme, corremme elettrico qua, sì ti sento dai. Ok, adesso vediamo fra quanti mesi arriva sta capsuletta, ma roba piccola, potrebbe arrivare anche subito. Ce n'erano varie, certe con la spina mono da 3.5, certe 2.5, lì non era spiegato bene in realtà sul sito cinese. Comunque che sia 2.5 o 3.5 al riduttore, ho preso alcuni riduttori tipo da 3.5 a 2.5, poi mi mancava, pensa, in tutta la baronda ne avevo tanti una volta, non avevo uno spinotto da stereo a mono, sempre 3.5, per mettere le cuffie sul baracchino. E ho ordinato anche quello da stereo a mono, da 3.5. Oh, poi roba che qua certe volte vai da coso, non abbiamo da ordinare, vai dall'altro da ordinare, cioè una volta mi ricordo in Media World, e il defunto Shan, che purtroppo mi è dispiaciuto troppo, tutti questi accessorietti te li dava, addirittura ti vendevano il kit dove ti davano da stereo grande a stereo piccolo, da stereo 3.5 a mono, un po' di tutto ti davano, da RCA destro-sinistro al jack 3.5, tutto il kit dentro ti dava tattori. Beh, tutti persi, o quasi tutti, no, non vado più, cioè a me la Conad non interessa minimamente, a me piaceva come era Oshan, roba elettronica, roba da vestiario, scarpe, batterie, roba da mangiare per i gatti, tutto, lì avevi un po' tutte le parti. A me di andare a Conad, che alimentari, sì che ogni tanto in offerta ti mette un televisore LCD in offerta di marche, marche inesistenti, non mi interessa, vai Gianfranco. Sì, lascia un po' di bianco, non vuole che magari per qualcuno non riuscisse a entrare. Sì, allora, per i connettori di tutti i tipi, dall'RJ45, per intenderci, a quello stereo, diciamo, quello classico, a quello, diciamo, un pochettino più grande, da 3.5, fino a quello piccolo, sia da 3, non so se ce l'abbiamo anche da 4, ma non ricordo, ce l'hanno tutti, quindi ce l'hanno soprattutto i cinesi hanno proprio tutti le riduzioni, quasi tutte le riduzioni, perché hanno quelle da stereo vecchio tipo, no, però poi c'è anche sugli apparati radio, poi c'è lo stereo da 3.5 e poi c'è anche il riduttore per quello fino a fine. Tu vai d'accordo, come diavolo si chiama, non lo ricordo più, quello che c'è dietro Bacca, e buonanotte, allora aspetta che riavvio tutto il nastro, dunque, è esattamente Muraglia, dai, ci sono riuscito dietro Sport, Car Sport, Compo Sport, insomma quello lì. Beh, buono sapersi, dai, buono. Un attimino, devo lasciare più bianco anche il vizio del ditino, mamma mia. Ok. No, io praticamente, cioè quando a prendere la macchina, andare lì, cioè ordinati dall'Inghilterra, in fare due spinotti. Vabbè, due soli me ne servivano, poi gli altri vabbè devono arrivare. 3 euro spediti dall'Inghilterra sembrano abbastanza dritti come jack, certe volte in quei kit provavi anche i jack storti leggermente, no? Un po' piegati, non perfetti, ma vediamo, ho anche paura di provarli. Sì, aspetta un attimo, facciamo proprio e a livello professionale c'è qualcuno che vuole entrare su 10? No, dovremmo essere tanti. Quindi dicevo, sì, più o meno sono stati tutti dalle stesse fabbriche, a meno che non quelli ultra professionali, placcati in oro, eccetera, ma devi forse prendere la gioielleria. Sì, i cinesi hanno vari conduttori essi, connettori, scusami ma oggi mi hanno massacrato, oggi ci vedo doppio. Ho fatto una montagna di interventi stamane che mi hanno fatto perdere, non avrò proprio nessunamente a mangiare, perdere tantissimo tempo, quindi però non mi ha detto una cosa, questo maledetto microfono che tu stai comprando, ti deve arrivare comunque dalla lontana Cina, che cos'è? Dimmi l'apparato che volevi usare. Presidente, il McKinley col Vox, con la funzione Vox, così non devi toccare neanche il mic, per quel box abbia le sue, tipo smette di parlare, poi passa un secondo e poi stacca, o mezzo secondo, se lo devi tarare bene, perché se lasci un attimo di pausa magari stacca, riparla e riattacca, capito? Anche per la macchina potrebbe essere utile, tipo mani libere. E poi vediamo se funziona, se non mi... non è che... Ok, guarda, io adesso sto usando il box, non so il delay che le ho dato, lo potrei anche aumentare. Allora, con una cadenza così non è male. Provo a fare un discorso più lungo, una frase più lunga. Allora, non è, il problema delle frasi più lunghe non esiste, esiste il problema dello stacco, capito? Certo, se parlo così vicino è più facile, però non devo lasciare nel discorso i buchi. Adesso ti faccio l'esempio, lascio un piccolo buco di, ecco, questo, meno di mezzo secondo. Ecco, sembra che vada bene. Per esempio, ecco, queste pause che faccio io, già sgancerebbe di brutto. Ho notato che c'è un tic, tic, leggero, leggero, quando moduli, forse è una cosa legata al timer del box. Sembra un metronomo, sento bassino, però si sente tic, tic, tic. Guarda, adesso si sente, ho tolto il box. C'è solo la ventola. Ecco, non c'è particolare segnali, non ne vedo sugli strumenti. E niente. Ripetiamo la procedura di prima, se qualcuno vuole entrare, facciamo un attimo il bianco. Confermo, è sparito, forse è qualcosa legato al circuitino del box, il timer, no, è un metronomo, sembra, bassino, pochio, però tic, tic. Sì, io ne ho costruito uno, di box, per utilizzarlo su un apparecchio che non ce l'aveva, che è una cosa tra l'altro assurda, ma vabbè. E ce l'ho qua davanti, è un progettino molto semplice, con integrato, e un microfonino a condensatore, e devo dire che funziona bene, si può regolare, diciamo, in vari modi, soprattutto il distacco che creava sempre problemi, e quindi per quella funzione c'era un pochino lungo, circa un secondo prima di staccare, tutto lì. Quindi dicevamo, ho capito che per il McKinley, quell'apparato lì, della Midna, se non ricordo male, o della, no, della President, volevo capire, il suo originale non ce l'ha per fare questa, cioè non ce l'ha in pratica, sarà manuale presumo, quindi tu lo vuoi da tavolo, così è. No, aspetta, no Gianfra, non stiamo facendo confusione. Cioè, tu hai chiesto perché voglio questo microfonino Vox. No, poi da tavolo cosa c'entra? No, mi serviva un microfonino da agganciare al colletto in modo che posso riprendere senza nemmeno toccare il PTT. Ma così per sfizio, per gioco, per provarlo, per vedere se funziona, per provare le regolazioni, poi chissà se si usa pure in macchina. E se hai i vetri aperti col rumore non sta sempre attaccato, capito? No, tu cosa, che domanda avevi fatto? Cioè cosa intendevi tu con da tavolo? No, allora dunque, io... aspetta, c'è qualcuno? No, siamo certi che nessuno può entrare. Ti dicevo, allora, quei microfoni l'avevo già guardati io perché mi servivano proprio perché, ripeto, c'era questo apparecchio che non c'avevo. Ed è una scocciatura, perché non è che si usi il Vox, ma in certi frangenti può tornare utile. Ecco, soprattutto quando l'apparato lavora in automatico. E quindi mi sono accorto che la maggior parte, anche su Amazon, di microfoni, nelle descrizioni, c'ha sempre Vox, nel senso che è un microfono che funziona con Vox. E tu dirai, grazie al cacchio, tutti i microfoni, se dietro c'hanno un Vox, funzionano. È ovvio, no? E quindi dovevi stare molto attento che mini integrato che andrà alimentato quindi dalla, dalla radio, presumo a 5 volt, con tutti i pro e contro di questo sistema. Capito? Perché la maggior parte degli auricolari da bavero, click e track, eccetera, funzionano col box che è dentro l'apparecchio. Quindi se è un portatile deve avere il box, se è qualunque altra cosa deve avere il box interno. Ce ne sono anche che fanno loro da box, però portano carucci, e quelli realmente bisogna vedere se sono compatibili con gli attacchi. Sì, sì, capito, l'ho già fatto. No, no, qui fa tutto l'apparato. Dovrebbe avere la sensibilità e il delay, no, il delay, il ritardo dello stacco. Fa tutto l'apparato, mi serviva esclusivamente un microfonino a condensatore con lo spinatino. E ripeto, quello della Presidente lo fanno pagare 25 euro più spedizione, non so se dall'Inghilterra o dagli Stati Uniti, no? Una cosa che dai cinesi li trovi a 2 euro, come vedete. Cos'era? AliExpress o eBay, non mi ricordo, vabbè. E per l'alimentazione, sì, tensioni basse, tipo 5 volt, spero che le impedenze non siano un problema, vabbè. Se no, casomai ci ho buttato 2 euro. Sì, giusto, però, quindi, ricapitolando, l'apparecchio che deve funzionare, poi correggimi se sbaglio, è il Presidente, a cui andrà applicato un microfono abbastanza lungo, presumo senza spiralizzazione, perché se no la spiralizzazione va bene solo su quelli da palmo, e che deve funzionare il più vicino possibile alla bocca, quindi il bavero dovrebbe andare bene se non sei in ambiente rumoroso. Per questo te lo potevi anche fare tu, ripeto, ci mettevi una capsula, l'apparecchio certamente, te lo dico per certo, ha l'alimentazione, un'uscita a 5 volt, quindi dovrebbe avere un minimo di 4 ma più che altro 5 piedini almeno, a partire dai 5 piedini dovrebbe avere un'uscita a 5 volt che potresti usare per un box esterno. Io me lo sarei costruito, perché se l'apparecchio c'è il box praticamente non fai altro che farle un banalissimo microfono, non c'è neanche bisogno di alimentarlo, perché si alimenterebbe praticamente da solo, le metti con la resistenza, basta, non c'è nient'altro da fare. Il problema sarebbe se lo vuoi azionare tramite tutti i, allora te lo devi portare gli altri fili, è fatto un pulsante, ma una scatoletta piccolissima, non dovresti avere problemi, capito? Guarda, in questi casi il problema più grosso è proprio il contenitore in cui lo devi mettere, altre cose non ce n'è. Lascia un po' di bianco, vediamo se qualcuno vuole entrare. Via. Ho provato anche col mic originale, basta avvicinarlo un po' alla bocca, col box inserito, quel mic da palmo, parli e attacca. Invece questo ha una presa, l'apparecchio ha una presa posteriore, jack mono da 2,5, perciò ho preso il riduttore, non sia che arrivi col jack 3,5. E puoi tenere attaccato anche il palmare, semplicemente non lo usi. Bellino, bellino. Se cose non ce le sognavamo sugli apparecchi vecchi, sui baracchini volgari vecchi. No, in effetti no, perché questa cosa tra l'altro la potevano benissimo implementare su tutti gli apparecchi, poi in considerazione che oramai, non so se in tutto il mondo, ma più o meno, a parte i paesi più messi male, in macchina non si può usare un microfono prendono in mano, ecco. Quindi se c'è un portatile, se c'è un microfono da palma ti vedono, scatta automaticamente la sanzione, comunque anche i punti sulla patente, come se fosse un telefono. Quindi è comodo, molti lo mettono, infatti dove c'è il parasole, no? Si mette uno di quei flessibili, tipo quelli del rubinetto, per intenderci, no? Che sono sotto la bandina. Lo fornisci magari di nero e c'è il tuo microfono, diciamo, flessibile nella macchina. Ega. Allora il cavetto, no, lasciamo bianco, aspetta. Si vede che sia un vizio mio. È proprio un vizio, cioè, da voi che siamo in due, meno male, tu fai molto bianco, già si riesce a entrare. Vorrei tanti dire tante cose e poi alla fine me ne dimentico a metà. Il cavettino sì, è liscio, dritto, anzi te daranno un metro e mezzo, credo, più di quanto te ne serva, perché anche se uno dovesse usarlo in macchina un metro e più che abbondante, anzi ti trovi in mezzo a sto cavo, in mezzo alle scatole, benché sottile. Ok, ti dirò di più, la tosse, il covid, io per il computer, per il vecchio portatile, ho quelle cuffiette, non cuffiette, è un auricolare, si aggancia all'orecchio col microfonino che ti va vicino alla bocca, no, per computer, e sono due spine differenti, una è, vabbè, il microfono e una le cuffie, no? Perché il vecchio portatile aveva cuffie e microfono separati, i nuovi gli hanno fatto quella presa, un jack 3.5 da 4 poli, quindi ci vuole la cuffia adatta, microfono con cuffia adatta, vabbè. E vabbè, io potrei benissimo prendere quella, ora come ora, provare se, adesso quella è stereo, ma oddio, boh, non so se mettendo l'adattatore mono, cioè l'adattatore da 3.5 a 2.5 è mono, non so cosa ne uscirà, potrebbe funzionare, ma che vada non si sente nulla, non credo succederà, a meno che non mandi in corto là, i 5 volte in uscita e, e faccia danno. Sì. Allora, andrebbero bene se non fosse da stereo, ecco. Il problema dello stereo è che c'è le cuffiette nelle orecchie, quindi anche quello può essere motivo di scocciatura. Dovresti avere invece quelle proprio per apparati radio oppure telefoniche, cioè le presenze che utilizzano i centralisti, quindi hanno solo padiglione elettorale e il microfono lì davanti alla bocca, spesso con i piccolini anche, che sono tutti a condensatore. Ma per quello lo dovresti vedere un po', adattare, capire innanzitutto cosa esce fuori da quello spinotto che c'è in dotazione, o mal andare a alimentarlo dal coso lì, dallo spinotto principale, che funziona lo stesso, tutto lì, però puoi risolvere tranquillamente. O se poi devi usare solo il microfono, tanto di guadagnato, allora è tutto più facile, perché devi mandarci solo la parte microfonica e non l'audio, e quindi è uno scherzo, probabilmente già uno spinotto microfonico lo metti e funziona immediatamente, anzi non funziona, deve funzionare immediatamente, capito? E poi lo metti dove ti pare piace, cioè non c'è bisogno di lo metti addosso al valvolo, perché ci metti una molletta di quelle piccoline, gliela raccogli o gliela fissi con qualche vizio e l'attacchi al corso lì, al prendisole, se la fatti così, cioè, come se fosse praticamente uno di quelli, un vivacocce d'auto, uno di quelli telefonici per autorare. Ma è contagiato Marco, lasciamo un po' di bianco se qualcuno può entrare. Cavolo, ho guardato l'ora, le 8.05, non mi ero reso conto della... è volata la serata, vabbè. Sì, che poi anche se è stereo, quello, c'è cioè l'adattatore stereo mono e poi mono 3.5 e mono 2.5. Domani si potrebbero fare prove così. Prima me lo devo settare bene, se no fa brutto e basta. Eia. bevo qualcosa. Bene. Ok, e niente. Poi mi dici quando è bevuto che stai pesando quello che c'è la banda laterale, da fare questo e quello, l'ho messo in linea. Così posso, cioè facciamo una prova in banda laterale, se va, se c'è qualcosa da ritoccare. Dopodiché dopo dovrei anche mangiare. Poi solo che non ho fatto neanche la spesa. Ok. Ehi Gianfra, se hai roba da fare da ultimare però fallami, io tanto sono abbastanza stanchetto, quindi a breve, se non subito, chiudiamo. Poi domani, impegni permettendo, e qua sta diventando una cosa, ogni arrivo ne è una, mamma mia. Vabbè, no, c'è una successione di mezzo di un apparente di Taranto che è andata in cielo, e siccome è tutto lontano, coso, deleghe, notai, banche, per carità di Dio, che tu rinunci o che tu accetti le briciole che poi entreranno, devi fare una marea di roba, vabbè, meglio essere orfani. Non è proprio così, non è proprio così. Comunque, niente, lo stesso studio, una cosa mi è passata in mente. Questa oggi è una giornata, si può dire, una giornata, come, non so se hai visto i topi che era, con lo sceneggiato con l'albanese, no, per essere mafioso, con lo zio. E lo zio qualche cosa facesse, cosa le chiedevi, lui ti rispondeva è una giornata di merda, oggi ne è una giornata di merda. Adesso mi hanno informato che il sistema di vigilanza non funziona, quindi Marco, mi accorrono un paio di minuti di prezzo per vedere cosa succede. Ehi Gianfra, facciamo così, dai, tu fai tutto con calma, mangia, fai la spesa se c'hai il mini market lì, quelle cose, sentiamo domani nel caso, io adesso stacco, sono bollito proprio, non cotto, bollito. Sì, comunque l'apparecchio è quello che ha MFM, SSB, CVCV, no, CVCV non ce l'ha, eccetera. È abbastanza completo, persino regolazione di tono in ascolto, che comunque è una vaccata, sì, un po' aiuta, ma non, lo metto sempre a zero, bilanciato poi. Ok, dai, se sentiamo le prossime, oggi poi non c'era nessuno qua su 10, quando troppo, quando niente. Veramente buon tutto, ci sentiamo domani, è sabato, vabbè, alle prossime, dai, possibilmente domani se capita. Ciao, buona serata Gianfra, controlla tutto bene, che quelle sono cose delicate della sorveglianza. Sì, già fatto, guarda, ho già visto che il trasmettitore, perché lavora su due livelli, no, è rinnovato, uno su un sistema V via cavo e l'altro tramite un trasmettitore che inietta un segnale sotto l'impianto, è partito il trasmettitore, meno male che costa poco, però magari si è spostato di canale, ogni tanto lo può fare. E niente, prima di andare via, una cosa velocissima, un test in banda laterale si può fare? Un normale test, sì, conta che ho il 3009, sì, USB? Sì, USB. Esecutivo. Non è molto potente, perché prova, sono a bassa potenza. Dimmi un po' se sta andando o meno, così possiamo andare a fare le nostre cose. Sì, funziona, ti ascolto bene, fammi un passaggio più lungo, dai, per vedere se ci sono rumori di fondo, magari c'è un vento, le ventoline quelle, prova. Sì, non so se ci ho inserito il coso, vediamo un po'. No, allora ecco, allora questo è il passaggio 1, quello normale, dovrebbe essere tranquillo. Adesso passo su un'amplificazione di compressione. Ecco qua, adesso è più compresso, infatti dovreste sentire un segnale un pochettino più forte. Distanza 20 cm dalla bocca. Quindi questo lo tolgo, anzi ce lo lascio, tanto non funziona la M. Vediamo un po' com'è. Sì, aumenta la modulazione, però anche molto il rumore di fondo, le ventole, le aumenta molto, molto. Comunque limpida, chiara, di più non si può, dai. Vabbè, quello dipende... cade il fiume. Dipende dall'amplificazione. Comunque, vabbè, lo posso lasciare così, se mi dici lasciato così, lo lascio così. Ripassa in M, che c'è gente che sta chiamando, quindi lo salutiamo e poi io scappo. Proviamo, dai. Eccoci qua, c'è gente sotto che parla. S-1, non so neanche se sia la stazione o la rossa. Ma propagazione, è che qua non sento segnali rilevanti, qua è noto l'attenuazione del cavo lungo, la noto parecchio Gianfra. No, questo è sensibilissimo, figurati che ieri stavo ascoltando questo, c'erano tutti i canali pieni, tutti, intorno alle 9, 9 e mezza erano tutti pieni, erano tedeschi, S1, S2. Poi c'è anche qualche americano, un po' più succede dal Brasile, segnali bassi, perso sentire, una cosa notevole. Va bene Marco, dai, io vado a fare così, poi cerco di trovare qualcosa da mangiare, magari mangio qualcosa dei gatti, così impara. Ok, ci sentiamo domani, dai, vediamo un po' di continuare il discorso su quell'affare lì. Ok, stammi bene, a domani. Eia, chissà che porcheria ne esce fuori, dai. Ok, comunque tentare non nuoce, dai. Ci sentiamo Gianfranco. Ciao, ciao, buonanotte. Ok, a domani.